Motivazione dello scritto. O Romani, anche ciò che è accaduto ieri e ieri l'altro nella vostra città sotto Urbico e ugualmente le azioni compiute ovunque in modo irrazionale dai vostri governatori mi hanno costretto a comporre questo discorso per voi che partecipate della nostra stessa condizione umana e siete fratelli, anche se lo ignorate e se lo rifiutate per la gloria delle cosiddette dignità. In ogni luogo, eccezion fatta per coloro che credono che gli ingiusti e i dissoluti saranno puniti nel fuoco eterno e che gli uomini di virtù, come pure coloro che vivono in Cristo, si troveranno vicino a Dio, là dove non esiste dolore, parliamo dei cristiani, tutti coloro che sono corretti dal padre o dal vicino o dal figlio o dall'amico o dal fratello o dal marito o dalla moglie per una omissione, costoro, per la loro ostinazione, per l'amore del piacere e per la ripugnanza a porsi sulle orme del bene, insieme ai demoni cattivi che ci odiano e che rendono siffatti giudici assoggettati e schiavi, e quindi diabolici magistrati, si preparano ad ucciderci. Ma vi annuncerò i fatti, perché vi sia manifesta anche la causa di tutto quello che è accaduto sotto Urbico. L'accaduto. Una donna viveva con un marito dedito completamente alla dissolutezza. Anche lei in precedenza era dissoluta. Dopo aver conosciuto gli insegnamenti di Cristo, lei rinsavì e cercava di persuadere il marito a diventare temperante, presentandogli gli insegnamenti e annunciando la punizione che sarebbe avvenuta nel fuoco eterno per coloro che non vivevano saggiamente e con mente retta. Quello però, persistendo nelle sue scostumatezze, a causa delle sue azioni, si alienò la moglie. La donna, allora, ritenendo cosa empia continuare a coricarsi insieme a un uomo che cercava di procurarsi mezzi di piacere in ogni modo, contro la legge di natura e contro ciò che è lecito, decise che fosse sciolta la loro unione. Ma poiché era supplicata dai suoi che la consigliavano a rimanere col marito, con la speranza che il marito un giorno si convertisse, facendo violenza a se stessa, rimase. Ma quando le fu riferito che suo marito, recatosi ad Alessandria, aveva compiuto azioni ancora più ripugnanti, per non essere coinvolta in questo turpe ed empio comportamento, se fosse restata con lui unita in matrimonio, rimanendogli compagna di vita e di letto, si separò, ricorrendo a quello che da voi si chiama ripudio. Quel bello e bravo marito, lungi dal rallegrarsi per il fatto che lei aveva posto fine a quelle azioni che una volta compiva con frivolezza insieme a servi e mercenari, godendo nell'ubriachezza e in ogni vizio, e per il fatto che aveva voluto fare in modo che anch'egli ponesse fine a tutto ciò, accusò lei, che si era separata senza che lui lo volesse, dicendo che era cristiana. Lei ti presentò, o imperatore, uno scritto, chiedendo che prima di tutto le fosse consentito di provvedere alle proprie cose. Poi, dopo aver provveduto agli affari di casa, si sarebbe difesa dall'imputazione, e questo lo hai concesso. Quello che prima era suo marito, non potendo dire altro contro di lei, si ribellò nel modo seguente contro un certo Tolomeo che Urbico aveva condannato e che era stato maestro della donna riguardo alla dottrina cristiana. Persuase un centurione che gli era amico e che aveva condotto in carcere Tolomeo a prendere Tolomeo e a interrogarlo solo su questo, se fosse cristiano. Poiché Tolomeo, avante del vero ma non ingannatore o falso nel suo animo, aveva confessato d'essere cristiano, il centurione fece sì che fosse imprigionato e che fosse tenuto in carcere per molto tempo. Alla fine, quando l'uomo fu condotto da Urbico, parimenti fu interrogato su questo soltanto, se fosse cristiano. Di nuovo, allora, consapevole dei beni che gli venivano dalla dottrina di Cristo, confessò l'insegnamento della virtù divina. Chi infatti nega qualcosa, o nega perché condanna il fatto, o rifugge dalla confessione considerandosi indegno o estraneo al fatto, ma nulla di ciò si verifica per il vero cristiano. Dopo che Urbico ebbe ordinato che Tolomeo fosse condannato, Un certo Lucio, anch'egli cristiano, accorgendosi che il giudizio era proprio fuori di ogni razionalità, disse a Urbico: «Qual è la causa? Perché hai condannato quest'uomo che non è né adultero, né fornicatore, né omicida, né saccheggiatore, né ladro, né ha confessato di aver compiuto qualche nefandezza, ma ha confessato di chiamarsi cristiano? O Urbico, tu giudichi non come si conviene a Pio imperatore o al filosofo figlio di Cesare o al Sacro Senato?» Quello, senza replicare altro, disse a Lucio: «Mi sembra che anche tu sia di tal fatta». E quando Lucio disse «certo», allora nuovamente comandò che anche lui fosse condannato. Ma quello dichiarava la sua gratitudine, sapendo di essere liberato da simili e malvagi padroni e di andare al Padre e Re dei Cieli. Anche un altro, un terzo, presentandosi, fu giudicato e fu condannato. Le insidie dei falsi filosofi. Anch'io, dunque, mi aspetto che si compia qualche macchinazione da uno di coloro che ho nominato e di essere appeso a un legno, almeno da crescente, amante delle chiacchiere, filopsofo e millantatore, filocompo. Non è degno del nome di filosofo quest'uomo che riguardo a noi testimonia pubblicamente le cose che non conosce, come se i cristiani fossero atei ed empi, agendo così per il favore e il plauso di molte persone che sono in errore. Se infatti ci perseguita non avendo letto gli insegnamenti di Cristo, è assai malvagio e molto peggiore degli ignoranti, i quali spesso stanno attenti a parlare su cose che non conoscono e a testimoniare il falso. Se poi, avendo letto, non ha compreso la grandezza che è in essi, oppure, avendola compresa, compie queste cose per non essere sospettato tale, cioè cristiano, molto di più è vile e perfido, essendo schiavo sia di un'opinione ignorante e priva di ragione, sia della paura. Voglio che voi sappiate che io, dopo essermi rivolto a lui e dopo averlo interrogato su alcuni problemi di questo genere, ho appreso e mi sono convinto che effettivamente non ne sa nulla. E che io dico la verità, lo dimostro col fatto che sono pronto a proporre nuovamente davanti a voi le questioni, se non vi sono pervenute le relazioni dei discorsi. Anche questo lavoro spetterebbe all'imperatore. Se però conoscete le mie domande e le risposte di lui, risulterà a voi evidente che egli non conosce niente delle nostre cose. Se però le conosce, non ha il coraggio di parlare a causa di coloro che lo ascoltano, come invece fece Socrate. Non si dimostra dunque filosofo, ma bramoso di fama, filodoxos, un uomo che neppure apprezza quella frase degna di considerazione detta da Socrate: alla verità non deve essere anteposto l'uomo. Al cinico, che si prefigge l'indifferenza come meta, è impossibile conoscere un altro bene eccetto l'indifferenza stessa. I cristiani non sono suicidi. Affinché qualcuno non dica: voi tutti uccidetevi dunque, andate da Dio e non procurateci molestie, dirò per quale causa non commettiamo questo e per quale motivo, se siamo interrogati, confessiamo senza paura. Ci è stato insegnato che Dio ha creato il mondo non senza proposito, ma a causa del genere umano. Abbiamo detto che gioisce per coloro che imitano le sue qualità e che si dispiace di coloro che nelle parole e nelle azioni abbracciano il male. Ma se tutti noi ci uccidiamo, siamo colpevoli, per quanto dipende da noi, del fatto che nessuno più sarà generato e istruito sugli insegnamenti divini e che non esisterà più il genere umano, mentre noi, se facciamo questo, ci comportiamo contro il volere di Dio. Se però veniamo interrogati, non neghiamo, poiché siamo consapevoli che non vi è nulla di male, mentre riteniamo cosa sacrilega non dire la verità in ogni cosa, quando sappiamo che ciò è caro a Dio. Ora poi facciamo in modo di liberarvi da un ingiusto preconcetto. Il genere umano schiavo dei demoni. Se a qualcuno venisse in mente anche questa riflessione, e cioè che se riconosciamo Dio nostro aiuto, come diciamo, non dovremmo essere sottomessi né puniti dagli ingiusti. Anche questo cercherò di risolvere. Dio, che ha creato tutto il mondo e che ha sottomesso agli uomini le cose della terra e ha dato un ordine agli elementi del cielo per la crescita dei frutti e per il cambiamento delle stagioni, e ha posto su questi una legge divina, ed è chiaro che queste cose le ha compiute per l'uomo, ha affidato la cura degli uomini e delle cose che sono sotto il cielo agli angeli che egli ha creato per questo scopo. Gli angeli, però, violando questa disposizione, si unirono alle donne e generarono figli, i cosiddetti demoni. E poi il genere umano resero schiavo di loro, sia con scritture magiche, sia con paure e con pene che essi procuravano, sia con la disposizione di sacrifici, incensi e libagioni di cui erano bisognosi dopo che si erano resi schiavi dei desideri passionali e hanno seminato in mezzo agli uomini uccisioni, guerre, adulteri, dissolutezze e ogni male. Per questo anche i poeti e i mitologi, non sapendo che gli angeli e i demoni nati da loro compirono verso i maschi e verso le femmine, sulle città e sui popoli le azioni che essi hanno raccontato, le hanno attribuite a Dio stesso e a coloro che sarebbero come figli nati dal suo seme, ai suoi cosiddetti fratelli e parimenti ai figli di quelli, Poseidone e Plutone, e dettero a ciascuno il nome che ognuno degli angeli aveva dato a se stesso e ai figli. Dio non ha nome, ma non esiste un nome da dare al Padre di tutte le cose, a colui che è ingenerato. Infatti, il nome con cui viene chiamato suppone un essere più antico che abbia impartito il nome. Padre, Dio, Creatore, Signore, Padrone, non sono nomi, ma attributi per i suoi benefici e le sue opere. Il figlio di lui, colui che solo può essere chiamato propriamente figlio, il Verbo, Logos, che coesiste ed è generato prima delle cose create, quando in principio per mezzo di lui creò ogni cosa e dette un ordine, è chiamato Cristo per il fatto di essere l'unto e perché Dio, per mezzo di lui, ha ordinato ogni cosa. Questo nome racchiude un significato sconosciuto, nello stesso modo in cui la denominazione Dio non è un nome, ma un concetto, insito nella natura degli uomini, per una realtà difficile da spiegare. Gesù è un nome che significa uomo e salvatore. Come abbiamo detto, egli fu generato per volere di Dio Padre a vantaggio degli uomini che hanno fede e per la distruzione dei demoni. Potete imparare ciò da quanto accade sotto il vostro sguardo. Molti dei nostri uomini, cioè dei cristiani, esorcizzando nel nome di Gesù Cristo, crocifisso sotto Ponzio Pilato, hanno guarito e ancora guariscono in tutto il mondo e nella vostra città molti indemoniati che non erano stati guariti da tutti gli altri esorcisti, autori di incantesimi e somministratori di farmaci. Essi invece rendono impotenti e cacciano i demoni che avevano posseduto gli uomini. Dio non distrugge ancora il mondo. Per questo Dio ritarda la catastrofe di tutto il mondo e non ne compie la distruzione che annienterebbe gli angeli, i demoni e gli uomini malvagi, a motivo del seme dei cristiani che egli riconosce nella natura come causa di conservazione. Se non fosse così, per voi non sarebbe possibile compiere queste cose ed essere sotto l'influsso dei demoni maligni, ma il fuoco del giudizio, riversandosi senza misura, dissolverebbe ogni cosa, come fece un tempo il diluvio che non salvò nessuno eccetto un solo uomo insieme ai suoi familiari. Questo da noi è chiamato Noè e da voi Deucalione. Da lui sono nati questi uomini, dei quali alcuni sono malvagi mentre altri virtuosi. E noi sosteniamo che ugualmente avverrà la conflagrazione, ma non come ritengono gli stoici, mediante la teoria della trasformazione di tutte le cose che si assorbono le une nelle altre, il che è assai biasimevole. E non diciamo neppure che gli uomini compiono azioni o sopportano ciò che accade secondo il fato, ma ognuno, secondo la sua scelta, agisce rettamente oppure sbaglia, e per la potenza dei demoni malvagi, coloro che sono virtuosi come Socrate e i suoi pari sono perseguitati e condotti in carcere, mentre Sardanapalo ed Epicuro e i loro simili appaiono felici nell'abbondanza e nella gloria. Gli stoici, non avendo capito ciò, affermavano che ogni cosa si verifica per necessità del destino. Poiché Dio creò fin da principio il genere degli angeli e degli uomini con un proprio arbitrio, giustamente riceveranno la pena nel fuoco eterno per ciò che hanno commesso contro la giustizia. È naturale per ogni essere creato avere la capacità del male e del bene. Nessuno potrebbe essere lodato se non avesse la capacità di volgersi all'una o all'altra cosa. Anche quegli uomini che hanno stabilito delle leggi secondo un pensiero giusto e sono stati filosofi, dimostrano ciò per il fatto che suggeriscono di compiere alcune cose e di tenersi lontano da altre. Anche i filosofi stoici hanno grandissima stima di queste cose nella loro teoria sull'etica. Così risulta chiaro che essi non sono sulla buona strada riguardo al discorso sui principi e sugli esseri incorporei. Se infatti affermeranno che quanto accade agli uomini avviene secondo il destino, oppure che Dio non è niente rispetto alle cose che mutano, che sono differenti e che si dissolvono per sempre in se stesse, essi appariranno possedere il concetto delle sole cose corruttibili e che lo stesso Dio, nelle parti o nelle totalità, si trova in tutto ciò che è male, oppure che il male o la virtù sono un nulla. Ma questo è contro ogni saggio pensiero, discorso o ragionamento.